Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, la rassegna stampa dei settimanali, dei periodici che sono in circolazione in questi giorni. Come sapete, da ieri con il Sole 24 Ore è in distribuzione anche 24 è il mensile del Sole 24 Ore, e come sempre, come abitudine proprio di 24, è dedicato questo numero a una parola chiave. La parola è una parola molto bella, molto importante, che è la parola a casa, casa. Questo è il tema attorno al quale poi si snodano tutti i vari servizi del magazine che trovate in vendita con il Sole 24 Ore, ripeto, dalla giornata di ieri. Vediamo allora come viene presentato questo tema da Maurizio Ferraris. Maurizio Ferraris è un docente di filosofia teoretica a Torino, e per spiegare il senso del termine casa mette in relazione sia il significato proprio di questa parola casa sia il nostro vivere attuale. Dice: pochi anni fa, mentre ero nel mio anno sabbatico, mi è capitato di ricevere a Bogotà una telefonata dalla Colf che chiedeva se portare il cappotto in tintoria. Le ho suggerito per il futuro di usare gli SMS, scrive Ferraris, ma qualche giorno dopo a San Francisco mi sono trovato a prenotare sul sito di Trenitalia un biglietto Torino-Asti per la settimana successiva. Ero nel mondo globalizzato, ma al tempo stesso eseguivo un'operazione iperlocalista per raggiungere una casa di campagna nel Monferrato, più o meno come un mio collega che insegna a New York e che ha però la famiglia in Italia, e ogni settimana si vede recapitare a casa la spesa che sua moglie fa per lui su internet. O come il ragazzo che qualche settimana fa vedevo impegnato in interminabili conversazioni serali via Skype. Skype è una delle modalità di utilizzo delle telefonate tramite internet, una modalità preferita specie dai più giovani perché è più economica, sulla piazza di un paesino del Peloponneso. Dovunque sei a casa, scrive Ferraris. A questo punto, da una parte, non c'è niente di sorprendente nel vivere a Lione, nel lavorare a Parigi, nell'abitare a Bruxelles, andare a far shopping a Londra, ma dall'altra la possibilità di un continuo contatto via web crea quelle che proporrei di chiamare comunità documentali, basate cioè sulla condivisione di scritture e comunicazioni che erano impensabili anche solo pochissimi anni fa. Davvero con uno smartphone, cioè con uno di questi telefonini più evoluti di ultima generazione, si ha il mondo in tasca, e al tempo stesso questo possesso è localizzato, è lì dove sei tu e dovunque tu sia, cioè anche in un piccolo centro o in aperta campagna. Questo ripensamento della casa, conclude Ferraris per presentare il tema di 24 di questo mese, questo ripensamento della casa a mio avviso è l'aspetto di gran lunga più interessante fra tutto quello che ci è stato offerto dalla tecnologia degli ultimi decenni. Casa come comunità, come famiglia, è uno di quei nomi, in effetti, di quegli ideali, di quei valori, che sono più frequentemente indicati come desiderabili, ma appena si è a casa, in comunità o in famiglia, il primo impulso è uscire. Queste le considerazioni di Ferraris che aprono appunto il numero di 24, su cui poi il tema casa viene appunto declinato in varie possibilità. C'è un bell'articolo, un lungo articolo di Sasha Carnevali su un fenomeno che è americano e che però rappresenta poi uno spunto di riflessione anche per l'Italia in qualche modo. Si tratta del homeschooling, potremmo tradurre appunto scuola a casa, ed è quella modalità di approccio alla scuola per cui i genitori, anziché mandare i figli appunto a scuola, preferiscono educarli a casa. Spiega Sasha Carnevali: oggi negli Stati Uniti 2 milioni di bambini non vanno a scuola, 2 milioni, ripeto, quindi un numero consistente anche per una nazione così grossa, anche per uno stato così grosso. Studiano a casa, accuditi dai genitori. È il fenomeno del homeschooling in forte crescita, non solo tra agricoltori residenti in zone sperdute, o tra evangelici che diffidano dei programmi statali. A ricorrervi è sempre più spesso anche la borghesia metropolitana. Sasha Carnevali Scrive questo articolo appunto su 24, spiegando nelle pagine che la pratica del homeschooling, cioè di tenere i figli a casa, farli studiare a casa, si era imposta negli anni 60 in risposta a metodi scolastici che erano ritenuti troppo coercitivi. Oggi tra l'altro i genitori possono avvalersi di curriculum che vengono preconfezionati e confrontarsi, come non pensare altrimenti, via web, cioè via internet, quindi trovare il modo di essere comunque ovunque, avrebbe detto Ferraris, anche se restano a casa e tengono i bambini a casa. È interessante segnalare in questa in questo lungo contributo di Sasha Garnevali che anche in Italia sarebbe possibile in teoria non mandare i figli a scuola. Dice: nel nostro paese molti pensano che non mandare i figli a scuola significhi ritrovarsi gli assistenti sociali e i carabinieri alla porta. In realtà l'educazione cosiddetta libertaria è un diritto anche da noi. Sono però pochissime, pare circa 200, le famiglie che istruiscono in modo autonomo i propri ragazzi. Infatti l'obbligo è comunque di istruirli, ripeto, non di mandarli a scuola. Il numero basso si spiega però con una mancanza di informazione. In realtà basta fare una richiesta alla direzione scolastica, spiegano quei pochi che hanno scelto lo homeschooling anche da noi, e allegare il programma che si intende seguire quell'anno. Poi bisogna presentarsi da privatisti naturalmente e dimostrare di avere svolto il programma che si era dichiarato appunto all'inizio dell'anno. L'istruzione però appunto rispetto alla scuola dell'obbligo, quella sì, deve essere data dai genitori e sono previste anche, come sappiamo, delle sanzioni. Allora, restiamo ancora un istante su 24, sul magazine del 24 ore. Sapete che ogni mese viene anche proposta una storia di una parola piuttosto che una riflessione su un elemento più spesso legato all'arredamento o all'abbigliamento. In questo caso la parola che ci propone Grazietta Buttazzi è collant. I collant, non so quanti di voi lo sappiano già, in realtà sono un'invenzione molto recente. Spiega appunto Buttazzi che, anche se è abbastanza simili nella forma a quelle medievali calze brache che venivano vestite dagli uomini appunto nel Medioevo, i collant si inseriscono di autorità nella storia della moda insieme al più eloquente simbolo di emancipazione femminile dei primi anni 60, cioè la minigonna. Tra il 63 e il 66 le gonne, disegnate dalla giovane stilista inglese Mary Quant, balzarono da una lunghezza che scopriva non più del ginocchio fino a metà della coscia, quindi riscuotendo un travolgente successo tra le generazioni più giovani. E le minigonne, le successive creazioni della stessa Mary Quant, ad esempio gli hot pants cosiddetti, potevano essere indossati solo con calze lunghe fino alla vita, sia contro il freddo sia per non offendere oltre il consentito il comune senso del pudore. In nylon, elasticizzati, spesso colorati con tinte vivacissime, i collant furono fra i principali protagonisti di questi anni, ma senza scomparire del tutto videro la loro diffusione severamente ridimensionata da due fenomeni contrastanti che caratterizzarono la moda tra gli anni 70 e 80: il sempre più ampio ricorso delle donne, ormai lanciate verso una crescente liberazione, all'impiego di pantaloni e stivali, e insieme il contraddittorio desiderio di elementi seduttivi come giarrettiere o reggicalze. Questa è la storia del collant, un elemento di moda entrato nell'uso comune ma che in realtà, come appunto abbiamo visto, ha una storia relativamente recente. La trovate su 24 in edicola in questi giorni insieme al Sole 24 ore. E allora lasciamo la casa di cui ci parla 24, usciamo ad esempio per andare sul posto di lavoro. Ho scoperto, sfogliando il magazine del Corriere della Sera in questa settimana, che sopravvivono ancora, e non in Italia, fa piacere anche sottolinearlo, delle indennità curiose nelle buste paga dei lavoratori dipendenti, indennità mutande addirittura, segnala il Corriere della Sera, il magazine allegato al Corriere della Sera. Nell'anno sorribilis della crisi, le prime voci a saltare dalla busta paga di manager e impiegati sono stati i bonus, come sappiamo, e i benefits, cioè quelle voci aggiuntive, quei vantaggi aggiuntivi che vengono concessi da alcune aziende, specialmente ai dipendenti di maggiore livello. Da quest'anno invece l'ufficio londinese di Clifford Chance, prestigiosa law firm, cioè studio legale molto grande internazionale, ha ripristinato per i suoi avvocati più zelanti una indennità che è un'indennità chiamata lingerie. Vengono assegnate 90 sterline, fanno più o meno 100 euro, da spendere in camice e reggiseni o boxer per chi si trattiene nella City, nel quartiere degli affari londinese, oltre le 11 di notte. L'azienda ha anche adibito un piano intero alla siesta, sistemando una serie di divani letto. Lo abbiamo fatto, spiegano al magazine del Corriere della Sera, per i nostri avvocati che abitano fuori Londra e non hanno possibilità di tornare a casa. Quindi un'indennità e anche la possibilità di restare pure nottetempo sul posto di lavoro. Non sono sicurissimo che questo si traduca davvero in un benefit, cioè in un vantaggio, ma comunque vi lascio il tempo delle informazioni sul traffico per pensarci sopra. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo parlando di curiose indennità che vengono assegnate ad alcuni avvocati che lavorano a Londra, ci lavorano, ohimè, così tanto che l'azienda, lo studio legale gli ha provvisti anche di brandine, di posti dove poter dormire in ufficio. Nell'attesa che decidiamo tutti insieme, io, voi ed io, se questo davvero rappresenti un vantaggio oppure no, vi suggerisco un'altra inchiesta che viene presentata questa settimana sull'Espresso. Social network, perché social network? Perché a casa o al lavoro comunque stanno diventando uno degli strumenti di maggiore aggregazione, di maggiore importanza un po' per tutti noi. Perché milioni di italiani, si è chiesto l'Espresso, vanno su Facebook o su altri siti simili? Risponde per la prima volta una indagine demoscopica con molte sorprese. Spiega Alessandro Giglioli, che firma questa inchiesta, che ormai i frequentatori di Facebook nel mondo sono 300 milioni, il che significa quasi quanto la popolazione di tutti gli Stati Uniti. Certo, non tutti poi cliccano da mattina a sera, c'è chi si è fatto un profilo, cioè si è aperto, come dire, una casella, poco più che una casella, e poi è sparito, ma il fenomeno c'è e continua a crescere. In Italia, riferisce sempre l'Espresso, si parla di circa 10 milioni, quindi un italiano su 6 è su Facebook, consulta Facebook, vale a dire quasi un internauta su 2. Perché lo fanno? Ecco, questa è la domanda a cui l'Espresso ha cercato di rispondere. Soprattutto, che cosa ci fanno, cosa si fa su Facebook? La risposta che solitamente danno quelli che su Facebook non ci sono è: perdono tempo. Oppure i più maligni dicono: provano a rimorchiare. Ma la SVG di Trieste ha condotto una ricerca su motivazioni e comportamenti dei frequentatori italiani dei social network e ha scoperto che le cose sono un po' più complesse. Questa indagine viene anticipata appunto sull'Espresso in edicola da ieri. Il campione era di circa 1400 utenti e per darvi giusto i risultati principali, il resto poi lo trovate appunto sul settimanale, si vede che la maggiore spinta a stare o a collegarsi con Facebook, con i social network, soprattutto con Facebook, è quella di stare in contatto con amici e conoscenti, cioè continuare ad alimentare per via telematica conoscenze che già esistono nella vita reale. Questo è il motivo per cui ci si collega per, diciamo, 6 utenti su 10, proprio la conoscenza, il mantenere contatti con amici e conoscenti. La conoscenza invece di nuove persone viene indicata come un motivo molto forte solo dal 10% del campione, come un motivo abbastanza forte dal 24% del campione. La condivisione di informazioni, quindi un utilizzo dei social network come possibilità di scambiarsi informazioni utili da tutti i punti di vista, sia del tempo libero sia per il lavoro, è abbastanza sentita. Rispondono: è molto importante, lo uso molto Facebook per condividere informazioni, il 30% degli intervistati, è abbastanza importante, dicono il 46%. È molto basso il dato di chi ammette di usare questo tipo di social network per flirtare, cioè per avere comunque delle relazioni con possibili implicazioni anche sentimentali. Solo il 10% dice sì, abbastanza importante, e invece il 21% risponde non è poco importante usare Facebook per questo. La frequenza di utilizzo di Facebook, altro dato interessante, è che un utente su quattro dice mi connetto tutte le volte che posso, e comunque il 44% degli utenti, si trattava, ripeto, di un campione di 1400 persone, il 44% ha risposto mi collego comunque ogni giorno. Quindi un fenomeno davvero in crescita che oramai pervade le nostre vite, sia da casa sia dal posto di lavoro. E adesso invece usciamo di casa con un'inchiesta che ci propone Panorama. Panorama, in edicola questa settimana, ha una serie di articoli dedicati alle tasse, al pagamento delle tasse o al non pagamento delle tasse, quindi esaminando le varie situazioni che si possono creare o che possono essere artificiosamente create per non pagare le tasse, una cosa che ohimè succede purtroppo nel nostro paese, ma non solo poi nel nostro paese. Però da tutta questa lunga inchiesta, che è composta di diversi articoli, vi volevo segnalare uno dei passaggi più gustosi. So che sicuramente non tutti gli ascoltatori saranno d'accordo con questa inchiesta, è proprio, direi, una questione di vita vissuta, cioè che cosa hanno fatto Marilena Bussoletti, Donatella Marino e Fabio Marchese Ragona. Sono andati per strada a Roma e a Milano e hanno visto in quanti posti, per quante prestazioni, per quanti servizi viene fatto oppure no lo scontrino. E il titolo è già eloquente, dice i furbetti dello scontrino, evasioni quotidiane, è la spiegazione. C'è chi lo fa solo ai clienti sconosciuti, chi propone sconti, chi inventa scuse anche improbabili. Non manca la creatività, tutto per non pagare tasse metodicamente. Questo avvisano appunto i colleghi che firmano questa inchiesta su Panorama. Naturalmente, ripeto, questo è un argomento che spacca sempre gli ascoltatori in due parti, coloro che dicono sì, è proprio vero, e quelli che invece invitano a non generalizzare. Abbiamo probabilmente ragione un po' tutti, è divertente leggere qua e là che cosa si sono sentiti rispondere in questo caso i giornalisti di Panorama. Dunque, c'è stato uno che ha detto non faccio mai scontrini la domenica, forse per una sorta di resistenza di tipo religioso o chissà. C'è una proprietaria di boutique di Roma che fa lo scontrino solo alle clienti sconosciute, e mentre alle clienti abituali fa prezzi ridotti, pagamenti dilazionati, naturalmente senza passare per le registrazioni fiscali. C'è poi un altro parrucchiere, segnalato sempre a Roma, che fa la ricevuta fiscale solo se il pagamento avviene con Bancomat. C'è invece il self-service, che ha un insolito sistema, lo spiegano così: quando c'è folla alla cassa, gli scontrini escono in una ininterrotta striscia di carta. Di fronte alla prospettiva di una lunga ricerca del proprio tagliando, perché appunto sono tutti uno dietro l'altro, molti avventori rinunciano, e però in questo modo, avvisano appunto sempre i colleghi di Panorama, non possono controllare gli importi, quindi non possono sapere se effettivamente è stato battuto uno scontrino corrispondente a quello che si è pagato. Anche nei ristoranti di un albergo, dicono sempre a Roma, se si mangia buffet, il ristorante è sempre il grande assente è sempre il mitico pezzettino di carta. Non va meglio per la riparazione di uno pneumatico, non va meglio per cambiare la batteria. E anche presso una sartoria a metà pomeriggio i colleghi si sono visti esibire lo scontrino numero 3 di tutta la giornata, quindi decisamente un'attività poco redditizia, con poco movimento. E naturalmente le situazioni per cui non viene rilasciato lo scontrino poi sono le più diverse. Infatti si riferisce di un piastrellista che di giorno fa in realtà il lavoratore dipendente, però poi di tardo pomeriggio arrotonda facendo dei lavori per i quali comprensibilmente non fa lo scontrino. Passiamo a Milano. A Milano appunto la risposta alla domenica non faccio lo scontrino è stata presa proprio da Milano, da un camioncino che vende bibite, e dice oggi è domenica, non lo faccio, ma se ripassa domani magari le do lo scontrino. Quindi una sorta di ritiro dello scontrino dilazionato. Nell'ora della movida sui Navigli, panorama, scrivono appunto i colleghi, passa setaccio, gelaterie, pub, pizzerie al trancio e bar. Su 15 esercizi rilasciano lo scontrino soltanto in 3. E poi un tappezziere che appunto non rilascia lo scontrino, o quantomeno fornisce il doppio prezzo, noto un po' a tutti: se si vuole lo scontrino, il prezzo è di 600 euro, scende a 480 per chi paga in contanti, e non va meglio con il calzolaio. E poi che poi spiega, adotta anche una delle risposte forse più sentite di tutte: in questo momento la cassa non funziona, però per la mancanza dello scontrino le faccio un euro di sconto. Viene citato però un anziano pizzaiolo che invece rincorre i clienti già usciti con lo scontrino che non era stato chiesto, volutamente non era stato chiesto. La ricevuta è un po' unta e stropicciata, chiudono i colleghi di Panorama, però è regolare. Questa è l'avventura di tre giornalisti di Panorama che sono andati appunto a cercare di farsi dare degli scontrini in quella di Milano e Roma, non hanno avuto sempre molta fortuna. E con questa vicenda di scontrini io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana sempre con Magazine 24. Ringrazio Carmelo Lauricella per l'assistenza in regia, Vittoria Mussini che mi ha aiutato a preparare questo programma. Un grande in bocca al lupo a Daniele Casagrande, che da quest'oggi non collabora più con Magazine 24. A risentirci.